Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. C'è un altro fiume sotto il Tevere, ma più caldo e più pulito, e se Roma riuscirà ad aggiudicarsi le Olimpiadi del 2020, scalderà il nuovo villaggio olimpico. Non solo, potrebbe scaldare gran parte della città con grande risparmio per tutti. Il progetto nasce da una collaborazione tra l'Università di Roma 3 e l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e vede impegnata Maria Luisa Carapezza, che ormai è diventata la nostra geologa di riferimento. Buonasera Carapezza e bentornata a Mr. Kilowatt. Buonasera a voi e grazie per la presentazione. Allora, ecco, ci spieghi come nasce questa strana configurazione, un fiume sotto un altro fiume, com'è possibile? Guardi, com'è possibile? La città di Roma è attraversata dal Tevere, in realtà al di sotto di questo c'è il Paleo Tevere, una grande valle, la Valle del Tevere, con dimensioni molto ampie, che è costituita al di sotto, diciamo, è confinata delle argille che sono abbastanza spesse. Sopra queste argille c'è questa, diciamo, questa paleovalle, questa valle del Tevere, costituita invece da una ghiaia, quindi molto permeabile, dove circola questo fiume, questo secondo fiume sotterraneo, e al di sopra di questo ci sono dei limi, i limi proprio del fiume, che costituiscono quindi un secondo isolamento. E sopra quindi, questo isolamento c'è a sua volta il Tevere che scorre in pratica. E a sua volta c'è il Tevere, che ovviamente se lei lo vedesse, diciamo, in una sezione, sarebbe su una parte molto piccola molto rispetto piccola, all'ampiezza certo. laterale che invece occupa questo strato di ghiaia, esatto. E quest'acqua, essendo isolata dall'esterno e quindi non risentendo delle condizioni stagionali, quindi il caldo estivo e il freddo invernale. A che temperatura si trova quest'acqua? Allora, quest'acqua noi abbiamo visto che si trova a temperature tra i 17 e i 21 gradi, con una media di 19, quindi diciamo è una temperatura ideale che si presta agli impieghi termici sia per il riscaldamento invernale che per il condizionamento estivo di ambienti utilizzando pompe di calore. D'accordo, quindi si tratta di fare un buco non troppo profondo, intercettare questo fluido a temperatura costante tutto l'anno e da lì, insomma, riscaldare come si fa normalmente con le pompe di calore. Che risparmi si riescono ad ottenere facendo questa scelta? Guardi, i risparmi sono molto elevati, anche grazie, insomma, alle ultime generazioni di pompe di calore. Si può arrivare fino al 75% rispetto ai sistemi convenzionali. Convenzionali, quindi parliamo di una caldaia, diciamo, sì, a condensazione, parliamo di una cosa, sì, di questo genere? Sì, sì, esattamente. Quindi è veramente notevole, diciamo, il potenziale, il altissimo, potenziale. Anche perché se è così larga ci si potrà scaldare tutta Roma, in teoria, ecco, poi in pratica non dico che sia facile farlo. No, quello sicuramente, anche perché bisogna distinguere, noi stiamo promuovendo appunto proprio nell'ambito di Roma Olimpico, come lei diceva, dei progetti pilota nei nuovi edifici. Ovviamente a Roma c'è anche un grosso patrimonio invece di esistente, di pregresso, che va riconvertito. E anche lì la sfida è interessante, insomma. Ecco, a proposito di progetti pilota, dove verrà utilizzata questa sorgente, diciamo così, tiepida per la prima volta? Guardi, abbiamo già in atto, il primo progetto pilota è all'Università di Roma 3, che come appunto promotore si è sentita in dovere, realizzando una nuova residenza universitaria appunto nel campus dell'Università di Roma 3, quindi di utilizzare queste nuove tecniche. Sorgerà un edificio abbastanza ampio, proprio in una zona in prossimità della Valle del Tevere, di circa 10.000 metri quadri. Cos'è? Una residenza per studenti, se non sbaglio? Sì, misto, non solo per studenti, ci saranno anche aule, anche settori, insomma, riservati, la zona amministrativa, insomma, è un progetto abbastanza ampio, c'è tutto uno sviluppo di Roma 3. Bene, quindi questo è il progetto pilota, e per le Olimpiadi che cosa ci sarebbe in ballo, che cosa si pensa di fare? Nell'ambito delle idee progettuali che stanno maturando nella candidatura di Roma alle Olimpiadi, ci sono delle realizzazioni di strutture, tra cui c'è uno studio per l'accertamento in siti in prossimità del Tevere, volti all'individuazione di interventi finalizzati al miglioramento della mobilità, E tra questi vengono promosse ricerche per verificare l'ipotesi della navigabilità del Tevere. Sono stati identificati già 3 siti dove stiamo accertando la possibilità dell'utilizzo di risorse geotermiche adatte agli impieghi energetici ecocompatibili. Quindi dove si costruiscono in pratica dei porti, dei porticcioli, e che verranno riscaldati così. Esattamente. Va bene. In realtà la fattibilità già c'è da parte nostra, quindi speriamo che si rendano operativi. Speriamo che Roma si prenda le Olimpiadi. Va bene, grazie cara Pezza. Grazie a voi, buonasera. Beh, insomma, questo è un tema che bisognerebbe approfondire non solo a Roma, anche se a Roma c'è una situazione particolare perché il bacino del Tevere si trova stretto fra 2 grandi complessi vulcanici che fanno guadagnare qualche grado alla temperatura dell'acqua. Questo è tutto, domani Mr. Kilowatt torna per parlarvi di come coniugare fotovoltaico e coltivazioni agricole su uno stesso terreno. Buona serata.